che? A pesce poi! A pesce poi! Cioè, è che spagna un po' si è preso la pausa, ma... E io aiuto! Perché? Und Snack. Bürgersteig. Hey, nein. Rein links, links, nach links. Ja. Ja.